Nell'intervista al Corriere con cui il ministro Castelli giovedì scorso, dopo l'imprevista dichiarazione di Berlusconi a favore della grazia a Sofri e in vista del prevedibile appello pro detenuti rivolto dal Papa alle Camere, ha manifestato una qualche cautelosissima apertura all'ipotesi di un atto di clemenza, purché ben inteso meno generalizzato possibile. Non si tratta tanto dell'insistenza con cui guarda sigilli, che a quell'ipotesi si è sempre dichiarato contrario, ma si sa che Ubi Maior invoca in nome della ragione di Stato il principio della certezza della pena, quando tutti sappiamo che l'unica certezza in merito dalle nostre parti è quella per cui in galera ci vanno di regola i poveracci o, come nel caso di Sofri, gli sconfitti, e che per vedere centrare i potenti non si può fare altro che sperare nel giorno in cui le giorni intere di cammelli passeranno disciplinatamente per la cruna del lago. E non si tratta dell'impudenza con cui quel grigio burocrate lombardo prefigura un atto di alto valore politico come fu l'amnistia di Togliatti all'indomani della guerra, dice, mettendo sullo stesso piano due situazioni storiche diversissime e paragonandosi incautamente a un uomo che aveva avuto, figuriamoci, le sue colpe e i suoi difetti, ma era comunque di una statura politica di svariate parasanghe superiore alla sua. E non si tratta neanche della fastidiosa frequenza con cui l'ingegner Castelli giustifica il proprio immobilismo, osservando che anche la sinistra, quando era al governo, non ha fatto niente in proposito, il che è vero naturalmente, ma è rilevante, perché chi ha delle responsabilità di governo deve sapersele assumere fino in fondo e non si può nascondere dietro l'inettitudine o la viltà altrui. No, il passaggio che fa davvero impressione è quello finale, in cui Castelli, dopo aver ammesso bontà sua che Sofri è una persona molto intelligente, i cui scritti lui legge sempre, trovandosi spesso d'accordo, anche se questo non giustifica naturalmente un trattamento particolare, che è un'altra obietà, irrilevante nel merito, aggiunge: in Italia ci sono stati terrorismo altoatesino, terrorismo di destra e ci sono stati i Serenissimi, che ricordo non hanno tolto un capello a nessuno. Rileggiamo bene gli ultimi 40 anni di storia e in questo contesto, solo in questo contesto, parliamo pure della grazia, ma non soltanto per Sofri. Ora, a parte il riferimento ai stutti rolesi, che credo siano stati aggiunti al pacchetto per l'intercessione del presidente austriaco Kleistil in visita a Roma in settembre, si tratta di un discorso che purtroppo abbiamo già avuto occasione di sentire. È da un po' che quando si parla di grazia a Sofri, e presumo ai suoi coimputati, qualcuno presenta per così dire delle candidature aggiuntive. All'indomani della lettera di Berlusconi al Foglio, sulle cui motivazioni mi permetterete per una volta di non pronunciarmi, all'indomani della lettera di Berlusconi al Foglio, furono parecchi gli esponenti di AN a perorare la causa della coppia Mambro-Fioravanti e quelli leghisti che ricordavano che la situazione carceraria degli indipendentisti veneti condannati per l'occupazione del campanile di San Marco non è stata ancora risolta. Ciascuno aveva le sue ragioni e non credo che sia il caso di discuterle in questa sede. Personalmente, per quel poco che ne so, sono convinto che sarebbe davvero ora di mettere una pietra sopra la questione sul tirolese, che i Serenissimi siano stati trattati in sede giudiziaria in modo abominevole e che non mancano elementi da prendere in considerazione a favore di Giusfa Fioravanti e di Francesca Mambro. E non credo, comunque, che ci si debba opporre a nessuna proposta tesa a far uscire qualcuno di galera, chiunque l'abbia formulata. Ma ci sono modi e modi. E il modo peggiore, credo, è quello di uno scambio, di un patteggiamento più o meno sottobanco grazie al quale ciascuno possa far uscire a titolo simbolico questo o quel suo prigioniero eccellente. Come dire che noi vediamo Sofri ma voi ci date un paio di terroristi fascisti, più Serenissimi poveretti che non hanno fatto male a nessuno. Tutti gli altri, si intende, restano dentro perché ci vuole la certezza della pena. In questo modo, ne converrete, in questo modo non si pacifica niente. E le proposte del genere sono soltanto la spia di un livello culturale desolatamente basso. Un provvedimento di clemenza, quello che sia, lo si prende se si è convinti che sia giusto e doveroso prenderlo. Gli scambi delle vacche si fanno al mercato, anzi ormai non li si fanno nemmeno lì. Non spetta certo un ministro in carica a riproporli sotto le mentite spoglie di un atto di alto valore politico. Ma a questo e altro, temo, ci dovremmo abituare.